mentre leggo questi divini versi io mi bevo dei diversi vini. Dante giunse nel loco di quei traditori che non san coniugar congiuntivi. Nuovo giro, altra corsa, meglio l'amore alla rossa. Nel dubbio chiediamo a Virgilio, guarda la mappa, quanta strada ci manca per sto paradiso. Appena ti ho vista mi è venuto duro non fare il volgare, ci vuole eleganza. Questi che ascoltano danza Kuduro devono tornare lì dentro la selva. Ecco che incontro gli scomunicati, qui sono lunghe le soste, sembrano tutti quasi colleghi, sembra di stare alle poste. Ancora più in alto rivedo il compagno che a scuola mi esultava in faccia, la gloria di diede alla testa soltanto perché aveva la media più alta di me. Vi aspetto in paradiso nella prossima puntata, chissà se sta Marlene è ritornata poi a casa. Con sta commedia io ci passo tutta la nottata, in tutto questo sta Beatrice manco.